dovessero fare, si facevano le loro vacanze, chi al mare, chi in montagna. Nelle carceri si moriva, però questo silenzio fa male, non perché ad agosto dovessero non chiediamo alle persone di rinunciare alle vacanze per andare sotto le carceri a Bacare in agosto. Per carità, ci si può andare in qualunque giorno dell'anno, in qualunque momento, per esempio adesso che ciascuno è tornato alle proprie occupazioni, per esempio si può organizzare partendo da un quartiere, da un posto di lavoro, gente che si conosce, se ne può discutere di carcere e dire che questo silenzio in fondo non ci appartiene, perché nella storia recente, per non recente ma anche un po' più in là, di questo paese il problema delle carceri è stato sempre al centro, un po' se non tra i centri dell'attenzione, tra i punti più forti dell'attenzione delle persone sensibili, e quindi questo silenzio francamente è un po' agghiacciante. Insomma, 12 morti in generale, di cui 10 suicidi e 2 di mala sanità. Cioè non... E a proposito di mala sanità, ci è arrivata una lettera scritta a mano da Re Bibbia qualche giorno fa, appunto, però la leggiamo oggi perché... Che segnala appunto una morte, in questo termine stupido non è mala sanità, perché in carcere mala sanità è un concetto che si riferisce al non buon funzionamento delle ASL, diciamo della medicina pubblica, e quindi il fatto che il non funzionamento di questo può provocare la morte di persone, il fatto che non vengano curate bene. In carcere è tutto più compresso, quindi voglio dire, il medico, così come il capo delle guardie, quando un detenuto chiama perché sta male, o addirittura lo chiama un altro detenuto, segnala che un altro sta male, lì la cosa si viene a sapere in pochissimi secondi, tutto il carcere lo viene a sapere, la guardia, il capo delle guardie, il medico di turno, il direttore, perché l'ambiente è piccolo, quindi non è tanto mala sanità, cioè c'è una dimenticanza. Qui c'è proprio una volontà di non affrontare il problema. Allora andiamo a leggere subito questa lettera che ci è arrivata, una lettera manoscritta, è del 3 settembre. Ci duole profondamente, scrivono e firmata alcuni detenuti di Re Bibbia Nuovo Complesso. Ci duole profondamente riprendere la penna in mano per segnalarvi l'ennesimo omicidio avvenuto nel carcere di Re Bibbia Nuovo Complesso, quindi usano la parola omicidio. Abbiamo scritto omicidio, e specificano subito, senza temere di essere smentiti, la morte di un nostro compagno è avvenuta oggi 3 settembre ed era annunciata già da tempo. La cronaca e la cronologia dei fatti è, a parte minime varianti, la fotocopia di decine di fatti analoghi che l'amministrazione penitenziaria archivia senza che si trovi un responsabile. Ed i mass media, per la maggior parte sodali e complici delle istituzioni, liquidano come casi di malasanità penitenziaria. Per noi si tratta di qualcosa che va ben oltre la mala sanità, ed è per questo che senza tanti giri di parole usiamo il termine sopradetto, cioè omicidio. Il nostro compagno era affetto da numerose patologie come il diabete, l'insufficienza respiratoria aggravata dalla comparsa di polipi nasali e del cavo orale ed altre problematiche che lo rendevano un soggetto ad alto rischio e senza ombra di dubbio incompatibile con il regime penitenziario. È stato trovato morto nel suo letto senza che il personale infermieristico e la custodia si accorgesse di nulla, nonostante dovesse al mattino somministrargli una delle 4 dosi giornaliere di insulina. Radiocarcere parla di infarto, ma poco importa allo stato attuale sapere la causa o le cause del decesso, perché ciò, se si fosse intervenuti in tempo, con maggior professionalità, competenza e umanità, non sarebbe dovuto accadere. Ci appare inutile ripetere ciò che da decenni andiamo gridando: di carcere si muore e non gliene frega niente a nessuno. Questo povero Cristo, così come coloro che lo hanno preceduto e coloro che purtroppo avranno a venire, andrà ad arricchire le già nutrite statistiche di decessi in carcere, che già annoverano cifre scandalose per un paese che ha la pretesa di definirsi civile. Ci sarà un'inchiesta che, se scusate il nostro consolidato pessimismo, approderà ad un nulla di fatto. Nessun colpevole, nessuna responsabilità. Le solerti forze di polizia, con la benedizione della magistratura, hanno pensato bene di eseguire delle perquisizioni con tanto di unità cinofile nel tentativo, quindi dopo questo fatto, invece di fare subito un'inchiesta, prendere il medico e chi di dovere per la giacchetta e dire, e anche chi aveva forse rifiutato il ricovero di questa persona. Invece di fare quello, hanno fatto la perquisizione con i cani cinofili in carcere, perché come dire, c'è un presupposto, un pregiudizio, un'imbecillità totale che i gradi bassi diciamo, di coloro che operano per lo Stato dipende da stupidità, i gradi alti da criminalità, perché sono dei criminali. Che c'entra? Come per far capire a tutti che probabilmente se uno è morto è perché forse girano droghe, perché l'unità cinofile si usano per scoprire droghe in carcere. E questa è la vergogna di un paese che è ormai ridotto a un livello di inciviltà spaventoso. Le istituzioni sono di una criminalità probabilmente mai vista, e nonostante ciò hanno la pretesa, con l'uso dei media, di far ricadere le responsabilità dei crimini che compiono sulla gente. E quindi la risposta, ne raccontano qui, forze di polizia con la benedizione della magistratura hanno pensato bene di eseguire delle perquisizioni con tanto di unità cinofile nel tentativo di trovare chissà cosa, puntini puntini, o forse cercavano l'insulina che non avevano somministrato la mattina. Eccola, però l'insulina dovevano cercarla in altri posti, non nelle celle dei detenuti. Vorremmo che tutti coloro che nelle calde estate parlano di drammi che avvengono nelle prigioni, tutti coloro che fanno le loro belle visite di cortesia e di facciata, atte, e ci riscusiamo per il cinismo e la diffidenza, però dovute ad anni di false promesse, quindi atte più che altro a lavarsi la propria coscienza, sappiano una volta per sempre che di carcere si muore e che tutta la società cosiddetta civile ne è responsabile, nessuno escluso. La loro compassione a gettone non ci serve né ci aiuta, occorre mettere le mani, si riferisce a quelle che appunto a Ferragosto sono andati a visitare le carceri, mettere mani nel problema e sviscerarlo seriamente, a costo di sporcarsi le mani e perdere qualche prezioso voto politico. Questo rivolto ai politici: se volete fare qualcosa sul carcere, fatelo senza cincicci tentennamenti e anche rischiando di perdere i voti dei ben pensanti. Siamo stanchi, conclude la lettera, di parlare di morte e di morti, e non smetteremo mai di combattere per il nostro diritto alla salute, alla dignità, alla libertà. Non sentirete da parte nostra nessuna lamentela pietosa né vittimistica. Il nostro è e sarà un grido d'accusa contro chi finge ipocritamente e vigliaccamente di avere a cuore i problemi dei carcerati, ma che dei reclusi non gliene frega nulla, e non andiamo oltre. Salutiamo con amore e rabbia il nostro compagno, quello morto, con l'augurio che i responsabili di tanto vile cinismo ed indifferenza siano divorati dai rimorsi di coscienza, ammesso, e non ci crediamo, che ne abbiano una. E dunque, quindi questa lettera di denuncia, insomma, speriamo che serva a smuovere qualche coscienza. Parliamo della gente, non crediamo appunto a quelle delle istituzioni. Noi siamo pessimisti, altrettanto pessimisti rispetto al muoversi eventuale delle istituzioni o anche strutture pubbliche dello Stato. Crediamo invece, speriamo molto nel muoversi della gente. Però passiamo ad altre lettere che ci sono giunte sempre questa settimana, più simpatiche, perlomeno piene di speranza. Lì invece era piena di denuncia e rabbia. Questa viene da Teramo, carcere di Castrogno. Ce lo scrive una ragazza. Vi scrivo dal carcere di Castrogno in provincia di Teramo. Sono Simona, una ragazza di 29 anni. Lì io ho compiuto 5 giorni fa, di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. È già passato un mese da quando sono arrivata qui ed è la seconda volta che mi arrestano. E non so né la data della prossima udienza né quanto rimarrò. Di certo non sarà poco tempo come la scorsa volta, 3 settimane qui, più quasi 2 mesi ai domiciliari la volta precedente, con differenza che ora non sono più incensurata e che non accetterò la detenzione a casa dei miei questa volta. Non voglio umiliarli ulteriormente e far vivere loro di nuovo l'incubo dei continui e controlli anche 2 volte durante la notte. Ho avuto la fortuna di conoscervi grazie alla mia compagna di stanza, che ha la vostra meravigliosa agenda ed è di Roma ed è sempre stata al carcere di Rebibbia. Colgo l'occasione per farvi complimenti in quanto fate un lavoro fantastico. Raccogliere disegni, pensieri, poesie di tutti i detenuti d'Italia è davvero una gran cosa. Poi, oltre ad essere molto carina e compatta, la vostra agenda è la soluzione ideale per trascrivere qualche pensiero, appunto, a contatto. Appunto a contatto, invece di tenerseli sparsi su foglietti, cioè in un posto compatto, invece su foglietti che poi vanno persi. Vi sarei molto grata se mi mandaste una per me, la scarceranda, anche se qua a qualche mese sarà finito questo anno, e qualsiasi altro materiale disponibile per noi detenuti. La mia coinquilina mi ha parlato anche di quaderni, sì, perché appunto da un po' di anni a fianco all'agenda mandiamo anche il quaderno dove ci sono dei testi sul contro il carcere. E quindi comunque per me già sarebbe magnifico ricevere la scarceranda, non credo abbiate già pronta quella del nuovo anno, infatti no, ci stiamo lavorando, appena sarà pronta la manderemo. Non mi crederete, continua Simona, ma in questi giorni stavo pensando a come fare per farvi inviare la smemoranda che ho a casa e magari ne avrei fatta acquistare una nuova con domandina qui dal carcere. Quindi non sapete che gioia scoprire l'esistenza di questa iniziativa che fa felice tantissime persone costrette in 4 mura come noi. Credetemi, non esagero. Poi, in quanto donna, da quando sono piccolino ho proprio una passione per agende più o meno grandi. Le acquiste magari rimangono intatte, mi piace tenerle nuove anche senza scrivere su neanche una pagina. Tutto questo da libera, qui invece la userei come un diario segreto, scriverei i miei pensieri, le mie sensazioni giorno per giorno. Mi farebbe molto piacere ricevere vostre notizie al più presto e qualsiasi materiale disponibile. Un'ultima cosa fantastica, anche l'idea delle ricette, continuate ad inserirne di nuove anche nelle successive edizioni, nella speranza che mi rispondiate quanto prima, che auguro buon lavoro, eccetera. Chiaramente, sicuramente Simona, come tutte le altre, gli altri che ci scrivono, avrà una agenda. Gliela manderemo se appena sarà pronta quella nuova. Se riusciamo a spero di tenere a mente questa, manderemo insieme alla stessa spedizione anche quella vecchia. Quest'altra invece, un'altra lettera ci giunge da Scandicci e da Solicciano, Scandicci a Firenze, il carcere di Firenze, Solicciano. Ciao, questa è scritta ovviamente la grafia, soprattutto diciamo la grammatica è un po' imperfetta perché sono 2 ragazze brasiliane. Ciao, siamo del carcere di Solicciano al penale femminile. Siamo Adriana Pereira, Miranda e l'altra Micheli Fernandes da Silva, nata in Brasile. Ci salutiamo tutta la radio della Radio Onda Rossa con tantissime affette e possiamo dire che vi adoriamo, siete al massimo del massimo. Ringraziamo per tutto quello che fate per noi carcerati. Chiediamo a Radio Onda Rossa di poter mandare alla nostra spesa, ma non c'è bisogno di nessuna spesa, 2 agende per scrivere tutto quello che pensiamo, probabilmente scrive, gli indirizzi delle persone che conosceremo in questo posto squallido. Siamo 2 ragazze brasiliane giovanissime con voglia di vivere, abbiamo sbagliato ma vogliamo pagare con dignità in tutti i sensi. Ma in effetti il pagare è veramente un concetto veramente è tribale, primordiale, comunque in questa società ancora lo usano e purtroppo non sarebbe giusto che voi paghiate niente, forse non avete, forse siete ancora, siete che creditrici più che debitrici della società, quella brasiliana o questa o quella mondiale complessivamente, quindi credo che non dovreste pagare nulla, dovreste casomai riscuotere qualcosa che la società vi ha negato qui o là o dovunque sia, perché poi le società gratta gratta rispetto ai poveri, agli ultimi, sono più o meno le stesse. Chiediamo di salutare tutti i carcerati come noi con tantissimo affetto, presto, libertà per tutti. E vabbè, poi ci dicono anche alcuni pensieri di quello che aspirano nella vita, aspirano di avere belle amicizie, sinceri, onesti in tutti i sensi, vogliamo trovare l'uomo della nostra vita, che ed un futuro bello, piacevole. La cosa importante è di si hanno i principi, con la testa sul collo e tanto cervello e i piedi per terra. E insomma, quella che è l'aspirazione, quindi come vedete qui non ci sarebbe nulla da pagare ma da riscuotere. E il problema è che qui è difficile riscuotere, perché la cassa di questa grama, squallida e bottegaia società francamente ha chiuso. I used to have fortune and fame. I used to have pleasure and pain. I used to have a name. Bad, bad brain. Bad, bad brain. And now I'm on the barren. Can't remember my name. Bad, bad brain. Bad, bad brain. E allora vediamo, però avevamo aperto dicendo il numero 12 morti in agosto, siamo passato il mese, arriviamo a settembre, la prima settimana di settembre continua a uccidere. Dunque vediamo, quindi in questa settimana Verona, un immigrato arrestato per furto. Suicida in cella di sicurezza, questo è un caso veramente agghiacciante. Cioè, io non lo so, francamente non so che cosa pensate. Se si pensa che per un furto possa essere ripristinata la pena di morte, allora francamente non lo so, si sono ribaltati tutti i criteri. Insomma, la vittima doveva comparire davanti al giudice ieri mattina, era stato arrestato la sera, il pomeriggio prima, non l'hanno portato in carcere perché appunto la mattina dopo doveva andare davanti al giudice, quindi l'hanno tenuto nella cella di sicurezza. In una cella di sicurezza si è impiccato. Qui il giornalista, che non conosce nulla, purtroppo i giornalisti dovrebbero, qui dice che per uccidersi ha sfilato la fettuccia dei pantaloni, e dice eppure queste quasi pregiudizi, no? Eppure quando uno entra in carcere si tolgono lacci e scarpe, tutto, cosa che poi non è vera. E insomma, il problema vero invece è che questa persona, guarda caso, era un cittadino marocchino che aveva già qualche precedente per furti, però aveva 32 anni, insomma, ora io capisco che ognuno può pensare quello che vuole, ma che per un furto si metta a repentare, a parte che si usi questo arresto preventivo, cioè voglio dire, un furto storicamente non c'è mai stato l'arresto preventivo in quasi nessun regime, perché il furto è una cosa che visto che il rischio è poco, la persona si può pure arrestare, fermare, poi si prendono le generalità, si manda a casa e si fa, si chiama poi per l'udienza. Che uno vada clandestino per un furto è abbastanza latitante, per un furto è abbastanza allucinante, no? Voglio dire, che si fa? In fondo per un furto quanto volete si rischia. E vabbè, insomma, invece questo si è suicidato, vabbè. Il problema appunto, e poi non riusciamo a sapere, già il carcere è un luogo buio. In ordine di grandezza, purtroppo, di grandezza in questa triste di peggioramento, diciamo, i gironi dell'inferno, per dirla no, con le raffigurazioni medievali, no, che gli inferni li fatti a gironi. Beh, andando sempre verso la parte peggiore, abbiamo il carcere, con tutti i gradatori di che fino al carcere speciale, ovviamente, che è il peggiore. Poi arriviamo ai CIE, i centri di identificazione ed espulsione, che stanno molto peggio del carcere. Poi arriviamo alle celle di sicurezza, che sono, perché mentre nel carcere movimenti ci stanno, ci sono tanti occhi che guardano, ci sta anche personale civile, quindi voglio dire, cioè, ci può essere anche una difficoltà a occultare delle cose a volte, no? Infatti a volte si riesce a sapere. Beh, nelle celle di sicurezza no, ci sta in genere una persona arrestata e le guardie di servizio in quel momento, che sono in genere una pattuglia che si conoscono, e lì finisce, quindi il controllo è molto poco. Nei CIE sapete tutti il disastro che succede. E poi beh, all'ultimissimo posto noi mettiamo gli OPG, manicomi criminali, perché quelli sono l'inferno nell'inferno. Insomma, quindi questa è questo settembre viene già segnato così. E poi, a proposito di OPG, l'abbiamo nominati, e qui viene subito che a Messina, famigerato Barcellona Pozzo di Gotto, l'OPG, uno dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari, manicomi criminali che esistono ancora in questo paese, un internato di 46 anni si è ucciso con il gas. E anche questo tra l'altro questa persona doveva uscire tra poco, questa è la cosa drammatica. In un internato di Cremona si uccide nella notte di ieri in una certa cella, infilando testa il sacchetto di plastica, inalando il gas, eccetera, eccetera. Oh, questa è la modalità. Dunque, era prossima alla liberazione, che sarebbe scattata nel 2012 con la cessazione della misura di sicurezza, ossia appunto l'internamento, che imposta a suo tempo per la commissione di reati molto lievi. Quindi per questo, però, in realtà questo era andato a finire nell'OPG per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale, e per questi due reati era stato prosciolto perché era stato quindi peggio, perché per questi due reati poteva prendere qualche mese. Gli era stata accollata invece gli era stata accollata la misura di sicurezza perché ritenuto in stato psicofisico confusionale, e quindi era andato a finire l'OPG molto peggio, perché se fosse fatto 6 mesi di galera per questi reati era già libero. E insomma, quindi doveva uscire tra poco, ai primi mesi del 2012. Inoltre già utilizzava dei permessi, aveva già utilizzato dei permessi da cui era rientrato regolarmente, per cui probabilmente c'è avuto una situazione di crollo, appunto dovuto allo stato, ai mesi, agli anni che ha sopportato in questo inferno. Non è finita, purtroppo, perché ce n'è un altro, eccolo qua, a Velletri. Questo fatto, tra l'altro di questo fatto se ne è parlato un po' sui giornali, perché c'è stata anche un'interrogazione parlamentare. A Velletri un detenuto di 30 anni, anche questo era affetto da gravi disturbi psichiatrici e da un'enorme obesità, è morto in carcere nella casa circondariale di Velletri. Aveva 30 anni, affetto da disturbi anche psichici e soprattutto da obesità. Pensate un po', pesava 150 kg, quindi una persona con 150 kg, intanto immaginate, cioè, come già in un carcere dove ormai non c'entrano più nemmeno un bastone di una scopa, 150 kg, è stato ritrovato morto nella sua cella. E vabbè, anche lui era in carcere per reati contro il patrimonio, quindi piccoli furti, e vabbè, aveva anche un passato di tossicodipendenza, e questo è il quadro. Vabbè, questo quindi tristemente abbiamo ancora una volta aperto continuato il giornale, questa rubrica, diciamo, con queste morti, però questo succede nell'universo penitenziario italiano. Allora, abbiamo segnalato le morti negli OPG, sono tante le morti, soprattutto in percentuale. Negli OPG ci stanno 1.550 persone, nel carcere 67.000, e il numero delle morti percentualmente è superiore negli OPG. In questa vergogna che non si capisce come non si riesce ancora a togliere, nonostante ormai le denunce sono tantissime, sono state anche conosciute, sono andate in televisione, le conosce tutta la gente, tutti sanno tutto. Non, è proprio un paese sordo in questa sua periodo. Va bene, noi abbiamo sempre la speranza che qualcosa si metta in moto prima o poi. Comunque, a proposito di OPG, segnaliamo che c'è il 16 e il 17 settembre, quindi questo fine settimana, venerdì e sabato, a Cagliari, quindi lo segnaliamo se qualcuno ci volesse andare, perché no, però vabbè, a Cagliari comunque, c'è una mostra che si chiama Senza Catene, l'orrore degli ospedali psichiatrici giudiziari, proprio di quello parlavamo, a Cagliari dal dal 16 al 17 settembre la società civile chiama le istituzioni al rispetto dei diritti costituzionali per un ruolo attivo, leggiamo il comunicato di chi ha indetto questa iniziativa, un ruolo attivo al Servizio Sanitario Nazionale e agli enti locali. Fino al 20 settembre la mostra Manicomi Aperti ci sarà, quindi al 16 al 17 ci saranno queste iniziative con dibattiti, apre la mostra con il dibattito, e però rimarrà aperta fino al 20 di settembre. Poi vi diciamo dov'è, comunque a Cagliari, nella sala la convegni del Centro Culturale d'Arte Il Ghetto, non c'è scritta la via, però insomma penso si trovi facilmente, Centro Culturale d'Arte Il Ghetto, quindi se qualcuno ci sente dalla Sardegna ci potrà andare. Si terrà il convegno nazionale Senza Catene, l'orrore degli ospedali psichiatrici giudiziari, organizzato dal Comitato Stop OPG Sardegna con il patrocinio del Comune di Cagliari. Il convegno sarà un'occasione importante per aprire un tavolo di confronto con le istituzioni al fine di sollecitare l'assunzione da parte loro, l'assunzione di un ruolo attivo soprattutto da parte del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti locali sulle questioni legate alla salute mentale, alle politiche sociosanitarie e ai diritti umani di cittadinanza. Questo fatto, ricapitoliamo perché ne abbiamo parlato spesso, però la cosa spesso può essere, sembra contorta, poi non lo è, e quindi può sfuggire. Perché e che cos'è il problema degli OPG? Sono ancora una cosa, tra l'altro si parla tanto di legalità, ne parlano tutti a sproposito. Gli OPG sono fuori dalla legge, perché quando è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, qualunque malattia viene curata dal Servizio Sanitario Nazionale. Ora, anche la cosiddetta malattia psichiatrica, come la malattia intestinale, dovrebbe essere curata dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi è l'ASL che se ne dovrebbe occupare al pari di qualsiasi altra persona con disturbi. Di qualunque li disturbi sono tanti, non si capisce perché c'è ancora questa ipocrisia oppure cialtroneria, sciatteria o veramente mentalità mafiosa di tenere il cosiddetto disturbo mentale diverso dagli altri disturbi, non si capisce perché. E quindi no, per quelli sono rimasti gli OPG, che è un'istituzione veramente medievale. 400 anni che esiste, che queste cose qui dovrebbero essere dal 700 che si parla della critica, insomma, no, all'esistenza di una separazione tra la cosiddetta medicina, cioè la cura di tutte le disfunzioni del corpo, e separatamente quella delle cosiddette disturbi mentali, che è un pregiudizio chiaramente, perché prima la differenza tra queste due tra questi due campi, no, le malattie psichiche oppure quelle del cosiddette del corpo, che è del tutto antiscientifica e completamente assurda, perché infatti risiede nel perché l'hanno divisi anticamente, no, queste due branche di medicina, perché in quella psichica si riteneva che ci fosse l'opera del demonio, è quella la differenza, mentre nelle altre tutto sommato no, in qualche caso pure perché comunque in quella del corpo era il problema medico, della scienza medica, per come era anticamente, poi via via si è modificata, mentre invece in quella psichica si riteneva ci fosse l'opera del demonio. Allora l'opera del demonio non può essere trattata da un medico ma di persone particolari, tutto un casino, siamo ancora a quel livello. Oh, svegliatevi, prendiamo un po' più di caffè, di tè, se è un problema di addormentamento faranno male, però fa più male l'addormentamento, uno diceva il caffè fa male, ma dormire fa molto più male, quindi siamo ancora al medioevo, perché infatti che loro chiedono che il Servizio Sanitario Nazionale, quindi le ASL, facciano il loro mestiere. Se tu hai un problema di salute di qualunque tipo, vai dall'ASL, punto e basta, e poi ti curerà il dottore come lo specialista di quel campo, come il gastroenterologo ti cura se c'è problemi di gastroenterite, qual è il problema, non si capisce. E invece siamo ancora, c'è il demonio, perché lì c'è il demonio, sicuramente c'è l'opera del demonio. Pensate come stanno messi questi, i nostri, queste persone qui, vabbè, quelle che insomma gestiscono questa specie di agglomerato che si chiama paese, che ovviamente un paese non è. Vabbè, e comunque torniamo al convegno. Durante le due giornate si svolgeranno tre tavole rotonde che ospiteranno senatori, commissioni parlamentari, inchieste di quelli che hanno le commissioni parlamentari che hanno fatto un'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, vedendone tutte il non funzionamento. Il rappresentante del Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa, perché lì dentro nell'OPG chi è rinchiuso nell'OPG, secondo il Consiglio d'Europa, anche l'ONU e anche tutti, tutto il mondo ha deciso che se tu prendi una persona e la rinchiudi in OPG semplicemente perché ritieni che sia malata, il malato non è come se uno dice io ho l'appendicite, io lo chiudi a chiave in un posto, cioè mi pare un po' pazzia, no? Ecco, è ritenuta tortura. Per questo l'Italia non riconosce il reato di tortura, perché se lo dovesse fare la legge, che tutta Europa gli chiede di fare il reato contro la tortura, i primi a essere incriminati dovrebbero essere tutti i responsabili del Ministero della Giustizia, ed è un problema, insomma, perlomeno cioè, mandare in blocco tutti i funzionari del Ministero della Giustizia. E beh sì, e qui per quello non lo fa, uno dei motivi è quello, perché stanno sotto reato, cioè nel senso mantengono in piedi delle strutture definite dal diritto internazionale tortura, l'OPG è una tortura, è un sequestro di persona. Dovete, se io sono malato vado in ospedale di mia spontanea volontà e accetto, decido di fare le cure, no? Quando ti fanno un'operazione vi fanno firmare un foglio, no? Perché, tu, che fai, mi rinchiudi perché mi devo fare l'appendicite? Siamo a questo, sembra, c'è da ridere, ci sarebbe da piangere, però noi ridiamo comunque. Quindi vogliono così mettere di fronte alle loro responsabilità il Servizio Sanitario Nazionale. L'evento sarà accompagnato dalla mostra e dalla performance interattiva Manicomi Aperti, che è appunto un'esposizione di fotografie, filmati molto interessanti e molto scioccanti anche, però fanno bene. E va bene, la mostra però poi sarà visibile anche fino al 20 settembre, dalle 16 alle 8 di sera. Ecco, qui ci sono pure dei numeri di telefono che so, vabbè, me li diamo, sono messi pubblicamente. Allora c'è un, se qualcuno volesse partecipare, 338 159 7287, un cellulare, quindi si può chiamare l'associazione Il Ghetto che organizza questo convegno, quindi 338 15 97 287. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Allora, passiamo proprio per non far vedere che parliamo solo delle questioni e che qualcuno vorrebbe dire, voi volete dire che questo paese fa schifo mentre tutto il mondo è bello. Noi non vogliamo dire questo, anzi, tutt'altro. Noi diciamo che questo paese sta affondando nella barbarie, nella miseria, più di quanto non lo fosse, perché appunto manca un'opposizione reale dal punto di vista della società, e questo sta avvenendo in gran parte del mondo. Per esempio, vi leggiamo allora questa vicenda, sempre riguarda le carceri, perché di carceri ci occupiamo. In Messico è una cosa drammatica, agghiacciante nella sua mostruosità. È stato fatto un rapporto sulle donne in carcere, soprattutto le giovani madri in Messico, nelle carceri messicane, condannate per droga. La drammatica situazione delle popolazioni carceraria femminile in Messico è stato fotografato da un rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Oaxaca, uno degli stati più poveri del paese centroamericano. Scusa. Il documento di cui riferisce, purtroppo il documento l'ha fatto la Fides, che è un'organizzazione cattolica, però comunque i dati sono questi, rivela che si tratta di donne per lo più povere, per la maggior parte madri sole, con figli a carico sotto i 5 anni, età in cui è necessario rinunciare alla custodia e affidarli ad un parente o ad un tutore. Mentre in Italia è fino a 3 anni, poi lo vorranno portare fino a 6, no? La possibilità delle donne di tenersi il bambino con sé anche in carcere, in Italia attualmente è a 3 anni, lo vogliono portare a 6, però fino a 3, in Messico è 5, poi in tutta l'America Latina è 5 anni. Dopodiché lo devono, le madri rimangono in carcere, il figlio viene affidato a un parente se ce l'hanno, altrimenti alle strutture che vi immaginate quale che siano. 29 di queste su 234 detenute nel carcere di Oaxaca, 29 sono indigene, per lo più zapoteche, originarie della catena montuosa meridionale, ma ci sono anche donne mixteche, trichi e altre popolazioni indigene della zona. A causa del sovraffollamento delle carceri, molte si trovano a condividere la cella con detenute già condannate e donne in gravidanza. Cioè, queste donne madri non hanno, con i bambini al seguito o le bambine al seguito, non hanno un luogo appartato, stanno in cella con altre donne che sono trasferite, alcune sono trasferite all'ospedale civile della città non appena iniziano ad avere le contrazioni. Le donne carcerate che incinta rimangono in carcere fino a che iniziano ad avere le contrazioni, vengono spostate all'ospedale cittadino con rischio, perché in quel momento può essere anche troppo tardi. Vabbè. E poi quelle che appunto fino a 5 anni tengono i bambini in cella con sé, le madri, le espongono chiaramente a quotidiani disagi, non per colpa loro, perché queste celle non sono particolarmente attrezzate. Il carcere non passa un cibo particolare per i bambini, quindi le donne devono provvedere con la solidarietà di altre detenute al sostentamento di questi bambini, comprando il latte, altre attività o anche le cose per vestirli, che ne so, i pannolini, queste cose qua. Ed è un dramma nel dramma, questo, quindi la situazione di diciamo anche delle carceri di altri paesi, insomma, non brillano. La situazione generale, l'abbiamo detto più volte, è inutile ripeterle, però ripetita juventus spesso, abbiamo detto che in tutto il mondo, e chissà perché, nonostante non ci sia stato un incremento di reati, in questi ultimi 20 anni, quindi dall'inizio del 90, 92, il calcolo si fa dal 92 al 93, quindi 20 anni, 19, ad oggi, la popolazione è più che raddoppiata, la popolazione incarcerata, complessivamente in tutto il mondo. E nonostante non ci sia stato un incremento, perché questo? perché le politiche securitarie fatte da tutti i paesi hanno incrementato i comportamenti per i quali è previsto il carcere, semplicemente, cioè dei fatti che erano semplicemente fatti non, che dire, non, non accettati, adesso vengono definiti crimini e quindi la gente viene mandata in galera. Allora passiamo alle spigolature, che diciamo, quindi piccole notizie, che però danno il quadro dell'assurdità in cui versa il carcere italiano. Per esempio, questa notizia dimostra che veramente siamo alla follia vera. Un detenuto è stato accompagnato in carcere durante la notte tarda, erano le due di notte, perché doveva scontare un giorno di detenzione. E siccome il giorno... La detenzione conta le notti, non il giorno, sapete, no? Cioè, tu qua, si dice condannata a 10 giorni, però contano le notti, per cui non contano le 24 ore, contano le notti passate in carcere. Questo quindi doveva passare, è stato accompagnato alle 2 e la mattina dopo è stato scarcerato. Quindi immaginate questo, a parte lo strazio, no? sto povero Cristo, e anche, voglio dire, ha comunque ingolfato anche il meccanismo, perché hanno dovuto portare in carcere le 2, hanno dovuto aprire la matricola, perché va immatricolato quando uno entra in carcere, fa prese le impronte, fatta la cosiddetta, vabbè, comunque aperta la cartella, aperta una cella, hanno dovuto mettere lì, la mattina l'hanno dovuto rimettere fuori perché un giorno doveva scontare. Qui siamo alla follia. Comunque il dato complessivo, abbiamo visto, dei 90.000 persone che entrano ogni anno in carcere, in media è sempre quella, non è molto cresciuta, da 80 a 90.000 va le persone che annualmente entrano in carcere, questo perlomeno da una ventina d'anni a questa parte. Il problema è che il sovraffollamento quindi è dovuto non a una quantità maggiore di persone arrestate, ma un allungamento delle pene, delle condanne. Questo è un calcolo che abbiamo fatto più volte in maniera molto scientifica, cioè con i dati alla mano, quindi è così. Poi lo fanno anche molti ricercatori, l'incremento, il sovraffollamento, voi prendete, immaginate che sia un serbatoio il carcere, no? E c'è un tubo dell'acqua che porta l'acqua e un tubo dell'acqua che fa uscire l'acqua, che la fa uscire. Se la quantità che entra e quella che esce sono le stesse, il livello dell'acqua rimane lo stesso. Se invece uno dei due prevale, o cresce il livello dell'acqua oppure diminuisce. Così è il carcere, no? La quantità negli ultimi 20 anni che entra più o meno sono quelli, ogni anno oscilla in maniera ondiva, un anno sì, un anno, però è la media è 85.000 negli ultimi 20 anni che entrano in carcere. Però la popolazione cresce in continuazione, che vuol dire? Vuol dire che le condanne sono più lunghe, non è detto questo, vuol dire che si esce di meno. Perché si esce di meno i casi, o perché le condanne sono più lunghe, o perché si è inceppato il meccanismo della liberazione anticipata, tutto era l'affidamento in prova, servizio sociale, la semilibertà, cioè quei meccanismi che ti permettevano di uscire dal carcere per andare a scontare in misura alternativa la pena, in genere tutti avviamenti al lavoro, prima della fine della condanna. Quindi questo meccanismo si è inceppato, quindi non esce più gente perché la semilibertà si riduce in continuazione, il lavoro all'esterno pure, l'affidamento in prova ai servizi sociali, tutte queste cose vengono continuamente, diciamo, si riducono in continuazione e quindi la quantità di persone che rimane in carcere è maggiore. Alcune condanne per alcuni reati sono aumentate di molto, quindi la gente ci sta di più e questo fa aumento. Quindi quando si dice in carcere ci sta più gente, qualcuno dirà beh, perché sono di più i criminali. Non è vero, perché i reati sono sempre quelli, anzi sono in diminuzione. Le persone arrestate, cioè prese e portate dentro, sono sempre le stesse. Il problema è che ci rimangono di più. Però nonostante questo, quindi per alcune condanne si rimane in carcere più tempo, però la gran parte, un buon 20.000 persone di questi 67.000 oggi presenti in carcere, circa 20.000 ci stanno un tempo brevissimo, una media di 3 giorni, e questi producono ingolfamento, però perché devono entrare comunque sta 3 giorni, poi riuscire, crea un casino della Madonna. E questa cosa è fino al punto che questo per trascorrere ci ha dovuto trascorrere una notte, cioè doveva trascorrere perché il coso diceva un giorno di carcere e doveva farlo, e insomma, quindi l'assurdità. A fianco a questa diamo la buona notizia di qualche giorno fa, di 3 giorni, 4, vabbè, della settimana scorsa, della fuga di 21 persone reclusi dalla CIE, Centro di Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria. Questa fuga, diciamo, che pare in parte sia riuscita, cioè non tutti sono stati ripresi, anzi molti sono rimasti uccel di bosco, come si usa dire, quindi ne siamo lieti. Però sul dato degli immigrati sottoposti al controllo penale, ecco, questo è un dato importante perché fa capire come si è ingolfato il meccanismo dei processi e come un comportamento che fino a ieri era soltanto sanzionabile per via amministrativa adesso è diventato un reato penale, diciamo il reato di clandestinità, cioè l'immigrato, l'immigrazione in realtà è diventato un reato. E quindi questa cosa fa, allora, volete sapere quanti sono stati processati per il reato di clandestinità recentemente introdotto nell'ordinamento penitenziario, nell'ordinamento giudiziario di questo triste paese? 2010 20.000 persone, 20.000 cosiddetti immigrati, cosiddetti clandestini, sono stati processati, ovviamente non tutti condannati, anzi 19.031 esattamente, i procedimenti penali avviati nei confronti di cittadini cosiddetti extracomunitari non in regola con i documenti, quindi un ingolfamento del sistema penale perché è diventato procedimento penale, quindi si va in tribunale, eccetera. I delitti loro contestati sono quelli legati al mancato ottemperamento agli obblighi di espulsione in violazione degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo del 98, cosiddetta legge Bossi-Fini, e quello del 2002. Sempre nel 2010 20.223 gli immigrati andati a finire sotto processo per questi reati. L'83% dei casi il giudice ha convalidato arresto, il quale era previsto come obbligatorio. Ciò vuol dire che 16.000 immigrati stranieri, 16.906, sono passati, seppur per pochissimi giorni, nelle 207 prigioni italiane, per il semplice fatto di essersi sottratto alla esecuzione di un decreto di espulsione. Questa è l'assurdità della situazione italiana. E va bene, quindi, come vedete, assurdità. Quindi vedete che questi 16.900, quindi quasi 17.000 persone, sono entrati in carcere andando ad ingolfare la già disastrata e disastrosa situazione carceraria per loro e per gli altri, quindi un doppio danno. Però comunque siamo proprio un po' alla, insomma, più che la pazzia, non so che come chiamarla ancora, la follia, la barbarie, però siamo a questi livelli, insomma. E dunque sono le 16 in punto, noi terminiamo la trasmissione di quest'oggi.

you live in Green Street Studios. You know what I'm saying? Gotta big up all the engineers and all the workers and the staff of Green Street. One love. Can't forget my niggas in UN. Alright? Hold it down.